voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. A proposito, lei non ha bagaglio? No, non c'è. Ma neppure una valigetta? Avevo una valigia bella, grande, piena di roba, ma non le porto alle stazioni io, perché le rubano. Però ho tutto sotto, ho 5 camicie, 12 paia di mutande e 16 calzini. I fear the hearts of men are failing on these shores. Been chasing tails and trapping shadows. The whisper lanes and hoods, the conjuring of smoke. We're setting fire to sleepy towns now. Drumming rise, my quarter coiled up and baying. The crackling of wildfires, the breathing figures into life. Now we have enemies amongst us. Through it all, I gave my hand, and through it all. Days will end. Battles for your heart carry on. I draw the light, I hush the sounds. We'll never need to know. Old songs and folk tales dying. I lift my hands and fake a mirror for your. Set out in crescent ships, bowing to the shores. Fathoms of lost souls below us. I cup this fleet and blow its sails to the end. And this world comes apart in my hands. Through it all I gave my hand. And through it all these days will end. Battles for your heart carry on. I draw the line, I hush the sounds, we'll never need to know. È iniziata la seconda parte di Eclettica sulle frequenze di Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20, quindi ne abbiamo ancora 30 da passare assieme. E comincio questi 30 con una storia, ma non spaventatevi, sarà una storia molto breve che vi permetterà di capire come mai vi siete appena ascoltati questo brano. Beh, un motivo è molto semplice, il motivo principale è che il brano mi è piaciuto, ma come io sono venuto a conoscenza di questo brano e dell'artista che vi sta dietro, grazie alla pagina di Eclettica su MySpace. Infatti Dale Grundle è questa il nome dell'artista, che forse qualcuno di voi si ricorderà come cantante dei Catchers, band che ha avuto i suoi 5 minuti di gloria. Comunque Dale Grando l'ha messo in piedi un progetto solista, per ora completamente autoprodotto, di nome The Sleeping Ears, e leggendo la descrizione di Eclettica sulla pagina di MySpace si è convinto che questa potesse essere la trasmissione adatta per la sua musica, quindi mi ha scritto, si è creato il contatto e mi ha raccontato di quanto sta facendo, pubblicando in completa autonomia questi EP a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, e mi ha fatto avere Setting Fire to Sleepy Towns, quello che vi siete appena ascoltati. Trovate le indicazioni semplicemente scrivendo The Sleeping Ears in un qualunque motore di ricerca, a partire dallo stesso di MySpace nel caso vogliate approfondire la conoscenza di Dale Grundle, esattamente seguendo lo stesso percorso, però al contrario, che lui ha seguito da se stesso ad Eclettica. Thank you. La Venale e Figli ha pubblicato finalmente l'attesissimo primo volume delle liste di bucato del Metterling. Le liste riunite della lavanderia di Hans Metterling, volume primo, 437 pagine più 32 di introduzione di indice, lire 11.000, con un erudito commento di Gunther Eisenbud, noto studioso del Metterling. La decisione di stampare a parte questa opera, prima del completamento dell'immensa opera in quattro volumi, è stata senz'altro accorta ed opportuna, poiché questo libro, brillante e provocatorio, con la sua cruda forza documentaria metterà subito a tacere le spiacevoli dicerie secondo cui la Venale e Figli, dopo tutti i guadagni fatti con i racconti, le commedie, gli appunti, i diari, nonché le lettere del Metterling, cercherebbe esclusivamente di ricavare continui profitti dallo stesso filone. Ma quanto si sono sbagliati, maldicenti! A onor del vero, la prima lista di lavanderia del Metterling, lista numero 1, 6 paia mutande, 4 magliette, 6 paia calzini blu, 4 camicie azzurre, 2 camicie bianche, 6 fazzoletti, non inamidare, costituisce la presentazione perfetta e pressoché globale di questo travagliato genio, noto ai suoi contemporanei come il pazzo di Praga. La lista fu compilata proprio nel periodo in cui il Metterling scriveva Le confessioni di un formaggio mostruoso, opera di immensa portata filosofica, in cui dimostrò non solo che Kant aveva preso una cantonata sull'universo, ma che, al momento di pagare il conto al ristorante, riusciva sempre ad assentarsi con una scusa qualsiasi. La versione del Metterling per l'amido è tipica del periodo, e quando il suddetto pacco di biancheria gli tornò indietro troppo irrigidito, egli piombò in una cupa depressione. La sua padrona di casa, Frau Weiser, soleva riferire agli amici che Herr Metterling rimaneva in casa per giorni interi, piangendo sul fatto che gli avevano inamidato le mutande. Naturalmente il Breuer ha già puntualizzato il rapporto intercorrente tra la biancheria inamidata e la costante sensazione del Metterling di essere perseguitato dalla gente con la pappagorgia. Questo era l'incipit delle liste di Metterling, da saperla lunga, di Woody Allen. You know the situation. Together we see another fiction. Walking, walking, walking, I see the mountain. In Eclettica abbiamo appena avuto l'occasione di riascoltare la band ligure di nome Exotago con Pertini is a genius, Mirinzin is not famous, e ci trasferiamo subito in California, nell'area di Los Angeles, a Silver Lake per la precisione. Area di Los Angeles dove, da un po' di mesi a questa parte, stanno facendo parecchio parlare di sé, sia la critica lo fa, ma anche i concerti sono tutti esauriti. I The Deadly Syndrome, che però non hanno ancora un album, ce l'avranno solo dal mese di settembre, l'11 per la precisione, su The Mac, album che si intitolerà The Ortolan, debutto dal quale ci ascoltiamo Eucalyptus. Ma che diamine sta facendo? E poi c'è, mi sembra, signor Luca Conte, il suo, il bidet, vede? Ma che cosa dice? Che cos'è questo? Ma si è fatto male? Niente, niente, ho solo perso la funzionalità delle prime due falangi, del mignolo e dell'anulare. Scusi, recupero la mia mano, scusi. Ecco, adesso. Oh, qui già, ecco sì, qui ci sarebbe poi il suo, il bicchiere da bere. Che cosa? Ah, questo è! Sì, esatto! È il suo nobile epitale. Posso spogliarla, signor Duca Conte? No, no, no, se ne vada nella sua cabina. Io non ho la cabina. Io mi sono permesso, per non gravare sul bilancio della società, di prendere un biglietto di seconda. La terza, come sa, l'hanno purtroppo abolita. Oh, se il regolamento lo consentisse, io preferirei dormire accucciato di fronte alla sua... Non lo consente. No, sì. Met a mystic man with an evil stare. Said I'm the wicked one and quite aware. I lost my nerve, I said don't despair. My evil son, time to prepare. Yeah. Il tema tragico dell'incapacità a seguire le istruzioni compare nell'unico dramma del Metterling, Asma, quando Needleman porta la palla da tennis maledetta nel Valhalla per un fatale errore. L'evidente enigma della seconda lista, lista numero 2, 7 paia mutande, 5 magliette, 7 paia calzini neri, 6 camicie azzurre, 6 fazzoletti, non in amidare, era chiuso nelle 7 paia di calzini neri, poiché era più che risaputo quanto il Metterling amasse profondamente il blu. Invero, per molti anni, la sola menzione di un qualsiasi altro colore era sufficiente a mandarlo in bestia, ed una volta egli prese a schiaffi Rilke perché aveva affermato di preferire le donne con gli occhi castani. Secondo Anna Freud, vedi i calzini del Metterling come espressione della madre fallica, dal Journal of Psychoanalysis, novembre 1935, questa sua subitanea deviazione verso un più sobrio colore per gli indumenti da piedi è da imputare alla infelicità causatagli dall'incidente di Bayreuth. Avvenne che, durante il primo atto del Tristano, egli starnutì facendo volare via il toupet ad uno dei più ricchi patrocinatori dell'opera. L'uditorio proruppe in risate convulse e Wagner lo difese con il detto divenuto ormai classico: «Tutti possono starnutire!» Al che Cosima Wagner scoppiò in lacrime, accusando il Metterling di voler sabotare l'opera del marito. Che il Metterling avesse dei progetti su Cosima Wagner è fuori dubbio. Sappiamo che la prese per mano una prima volta a Lipsia e successivamente, 4 anni dopo, nella valle della Ruhr. A Danzica egli urtò di sbieco contro la tibia di lei durante un temporale improvviso ed ella pensò che sarebbe stato preferibile non rivederlo più. Tornando a casa in uno stato di profonda spossatezza, il Metterling scrisse allora I pensieri di un pollo e dedicò il manoscritto originale ai Wagner. Ma quando costoro lo infilarono sotto la gamba più corta del tavolo da cucina, il Metterling divenne cupamente intrattabile e passò di botto ai calzini neri. Questo era ancora l'incipit delle liste di Metterling, da Saperla lunga, di Woody Allen. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 42, volume numero 2. Indice: Moose, The Coral, Bjork, Farabi Lionheart, White Williams, Figurines, The Sleeping Years, Fujie e Miyagi, Ex Otago, The Deadly Syndrome, The Willows. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, ovviamente, sempre sulle frequenze di Rock FM alle ore 19.